infatti Lucia del centralino mi dice che Sara, la ragazza con cui ho parlato prima al telefono che aveva chiamato per avere la maglietta di Rin, ha appena litigato con il suo fidanzato perché prima lei non l'ha salutato in diretta. E vabbè, dai, ti saluto io, Alessandro, dai, ma lei non ti ha salutato semplicemente perché fai talmente parte della sua vita che in certi momenti si scorda di averti, cioè nel senso buono. Andiamo avanti perché sennò peggioriamo la situazione. Perfetto così. Ragazzi, attenzione un momentino perché è arrivato Gigi D'Agostino. Su Radio Italia Network, Gigi D'Agostino. Ogni giorno tutto intorno, se c'è musica, un buongiorno. dentro. Ora scusate, non ho più tempo. Network. destino. Chiudi gli occhi e attenta a credere. grazie. Grazie, perché ogni giorno mi dai il sogno di un mondo che non c'è e che forse non ci sarà mai. Grazie, perché in ogni istante mi dai la forza di ingoiare i bocconi amari dei finti amici, dei finti amori. Grazie, perché sei ovunque e non mi lascio mai solo. Grazie, perché sai essere dolce e violenta. Grazie, perché mi sai fare paura e mi sai proteggere. Grazie, perché mi fai chiudere gli occhi. Sei sempre dove colpirmi, per darmi quel dolore piacevole che solo tu sai darmi. Grazie, perché con te ho imparato a lasciarmi andare. Grazie, perché mi dai tutto il dolore e il piacere di cui necessito. Grazie perché fai saltare, gridare, piangere, sorridere interi popoli. Grazie perché suoni dentro di me. Everything I ever done, everything I ever do.